Ma mi pare che il problema di un'azione sulle tossicodipendenze è l'ultimo dei pensieri di Fini e di Alleanza Nazionale. In realtà siamo di fronte a una campagna identitaria, cioè una campagna per rafforzare su alcuni temi che possono parlare all'opinione pubblica più moderata, più preoccupata della sicurezza e della su temi, diciamo, di ordine securitario, come può essere l'immigrazione e quindi le droghe e altri temi, e ricreare un po' l'identità di Alleanza Nazionale di fronte alle scadenze elettorali, in primo luogo delle elezioni regionali del 2005 e poi delle politiche del 2006. Quindi siamo di fronte a una campagna politica di partito, contemporaneamente alla campagna per l'approvazione della legge, che sicuramente avrà tempi lunghi per l'opposizione in Parlamento, nel Paese, perché è un testo pazzesco da ogni punto di vista, antiscientifico, contro lo Stato di diritto, contro il garantismo, contro il giusto processo, contro le autonomie regionali, contro il welfare, lo Stato sociale, insomma è un testo che sarebbe la peggiore legge sul tema di tutto il mondo. C'è però contemporaneamente un'offensiva sul piano della gestione, per cui è stato licenziato il prefetto Soggiu, c'è il nuovo capo del dipartimento che è l'ex deputato Nicola Carlesi di Alleanza Nazionale, c'è una commissione, un osservatorio tutto di fedelissimi, quindi sul piano anche della gestione delle risorse si cerca di orientare la politica contro la riduzione del danno e a favore delle comunità di segregazione pura e di avere un potere di indirizzo e di anche sui servizi pubblici ricattati in modo che perdano ogni capacità operativa. Ecco, questo è il quadro in cui dobbiamo pensare che nelle prossime settimane inizierà la discussione al Senato in commissione congiunta giustizia e sanità e pensare che questa è una battaglia che credo durerà certamente più di un anno e quindi insomma la partita è solo all'inizio.